Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. E anche di Valerio Rocchetti, nostro regista, e Riccardo Silvi, il nostro redattore, e bentornati all'ascolto. Questa puntata di oggi avrà una guida molto piacevole, ne sono assolutamente sicuro. Mariangela D'Abraccio, benvenuta signora. Grazie a voi. La signora D'Abraccio è al Teatro Quirino di Roma con La rosa tatuata di Tennessee Williams. E gli ascoltatori di una certa età ricorderanno i film con Anna Magnani e quale attore? Bart Lancaster, premio Nobel, Nobel impara un po' troppo, premio Oscar nel 55 per l'interpretazione di questo film. Ora è una pièce teatrale ancora per due weekend qui a Roma, Teatro Quirino, a Via delle Vergini. Signora, però questo nostro cielo, diciamo così, è terrestre e non tatuato, si basa molto su quanto riusciamo a dire così nell'impronta, e lei è colei che deve colorarla questa settimana, quindi a lei la parola. Ma dunque, la rosa tatuata, vogliamo parlare anche un po' prima della rosa? Vuole sapere cosa penso io di una frase che mi colpisce? No, ci parli anche della rosa tatuata. Ma la rosa tatuata è un testo, adesso sembra attualissimo perché parla anche di, all'interno c'è l'immigrazione, no? Parla di immigrazione e parla di difficoltà di inserimento dello straniero in un altro territorio. Quindi è una italiana, una donna del sud, una donna del popolo, una sarta, quindi una donna del popolo, che arriva in America con marito, figlia, tutto per sognare una vita migliore. Questa è una commedia però, quindi lui, l'autore, racconta tutto questo con leggerezza, diciamo, non affronta i temi in modo così, diciamo serio, tra virgolette. E poi accadranno tante cose, diventerà vedova, perderà il marito e poi incontrerà di nuovo un altro italiano. È una commedia strana perché il protagonista ha dei grandi rapporti con sia con il fatto religioso, lei parla con la Madonna, lei si appoggia alla Madonna, lei litiga con la Madonna, fa tutto e chiede alla Madonna, però poi è anche molto magico perché è una donna che sente dei segni particolari, cioè è una protagonista molto carnale in un certo senso, sente tutto con la pelle, con gli odori, gli umori, è scritto per una grande attrice come la Magnani, quindi è un ruolo che dà la possibilità a un'attrice di passare da momenti tragici a comici, come la protagonista è così umorale, sente delle cose, cambia improvvisamente da una risata a una rabbia, così è un grandissimo, devo dire, ruolo in questo senso, abbastanza unico. E quindi è come ci vede un americano, cioè un americano come può vedere un'italiana del sud? Intanto la ama moltissimo, Tennessee ama moltissimo l'Italia, si vede in questo testo, e poi ci vede appassionati, simpatici, un po' buffoni, un po' coloriti, pieni di credenze, quasi di stregoni, perché ci vede lì attaccati alla religione, a dei segni, alla magia. Quindi questo ci fa pure pensare, no? Come ci vedono, devo dire, scritto negli anni 50, quindi chiaramente è un'idea diversa di un'Italia diversa, però lui anche lì racconta e fa dire a certi americani anche certe cattiverie, cioè ci vedevano come gli animali, dei selvaggi, dice, non sono ancora civilizzati, vivono nelle caverne, cioè maccheroni, terroni, cioè c'era una violenza anche all'interno poi della commedia, si racconta un po' di questo, ecco. Ma c'è un prete spiritoso alla Conferenza Episcopale Italiana che in questi giorni sta facendo circolare nell'ambito dei giornalisti una descrizione di immigrati, e chiedendo poi di indovinare a quali immigrati ci si riferisca nel testo. È una descrizione: sono bassi, sono scuri, vivono in gruppo, si lavano poco, vivono in baracche di metallo o di cartoni, rubano e se scoperti sono violenti. Insomma, sembra, diciamo così, la descrizione in cui indulgiamo spesso e volentieri, soprattutto nei mesi scorsi abbiamo così commesso questo peccato per generalizzare, insomma, su intere etnie come quella rom, come quella romena. Certo. Si trattava di un rapporto dell'Ufficio Immigrazione degli Stati Uniti 1923. Ecco, stavo dicendo perché mi sembrava una descrizione che, frequentando questo testo... Poi diceva anche, preferiti i lombardi e piemontesi perché, benché incolti, diciamo un po' abbastanza ritratti mentali, però è gente che ama lavorare a condizione che riesca a restare unita alla famiglia. Sì. C'è degli altri invece diffidati, eccetera. La famiglia, sì, sì. La descrizione nel testo è pazzesca, perché la protagonista dovrebbe essere pure un po' grassa, tonda, lui che neri, così, il mio l'uomo che incontrerò Mangiacavallo, oltretutto si chiama di cognome, interpretato da Paolo Giovannucci, dovrebbe essere tarchiato, grosso, il camionista, che adesso è difficile anche trovarli questi fisici, nel senso che la generazione si è allungata, i ragazzi di oggi, e quindi è vero che eravamo così, ci vede un po', eravamo forse così, e ci vedevano, si ricordano così, quindi che stanno sempre in gruppo. Infatti qui la commedia è tutta in un, diciamo, come si può dire, appunto, in un villaggio di italiani, ecco, tutti insieme sono, vivono insieme. E la famiglia, molto, lei, la famiglia per lei era molto importante. Sì, ma a parte, diciamo così, l'epoca sembra sognare, stiamo parlando del 55, dove Tennessee Williams scrive un testo per Anna Magnani. Sì, che poi lo scrive in Bar Lancaster, sì. Sì, e Bar Lancaster lo interpreta, diciamo così, in questo ruolo. Sì. È tutto improbabile, insomma, certo. Non lo ricordo, almeno nel film con la canotta. Così. Sì, perché lui bionda, no, però ha fatto un grande, si fece una frangetta per fare un po' lo stupidotto. Sì, beh, era bravissimo, però chiaramente faceva uno sforzo, essendo diverso da quello che può essere, insomma, un italiano. Sì, ma diciamo così, era un momento in cui la parola, sia che venisse offerta tramite il cinema, sia che venisse offerta, come capita lei in questo momento, sulle tavole di un palcoscenico di teatro, la parola aveva un'importanza tale. Sì, sì, assolutamente. Un'importanza tale, era quasi una specie di dono. Poi siamo, diciamo così, passati all'epoca, l'ho letto ultimamente, non so a riferirlo a chi, dove un sociologo addirittura si azzarda a teorizzare la società del salotto, cioè la società del... così, del buon parlare, insomma, sì, come chiacchiericcio come soluzione a tutti i problemi. Ma questo non impoverisce anche la parola che passa attraverso il teatro? Infatti il teatro è ancora un luogo, insomma, della parola, no? Questo lo rende diverso da tante altre forme di comunicazione. No, impoverisce, forse impreziosisce, nel senso che poi diventa un luogo raro, dove forse uno dei pochi luoghi dove appunto si va lì e la parola ha un significato, ha un peso, si lavora intorno alla parola. La parola è un'emozione, è un'indicazione molto precisa, c'è un autore, quindi il pensiero di qualcun altro viene messo in scena, rispettato o reinterpretato. Insomma, è un luogo, in questo senso io mi reputo fortunata, perché è un luogo di libertà ancora il teatro, è quel luogo che si lamenta, molti viene tartassato, in questo momento tutta l'Italia è tartassata, però viene stritolato, viene in questo momento tenuto, sembra, in un angolino, che non è, perché poi i teatri sono pieni, la gente, insomma, il teatro è sempre vivo, come lo spettacolo dal vivo. Io dico sempre il live, insomma, anche per i cantanti, anche per i concertisti, rimane il luogo più forte di un artista, cioè se un artista ha quella forza di rapporto col pubblico, non ci sarà mai discografia o moda che possa farlo crollare. Quindi il live è una cosa molto importante per un artista, è quel contatto fondamentale, quindi non credo che non morirà mai lo spettacolo dal vivo. E il teatro diventa ancora un posto di libertà per un artista, perché ha la possibilità ancora di scegliere i tuoi progetti, di farli, è tutto forse ancora artigianale, per questo ancora umano, con un contatto, non sei una pedina, una cosa che ti spostano e che non, finché servi, ma ancora c'è un valore del talento, di una carriera, di certe cose, sempre lottando, perché si sta facendo confusione anche nel teatro, spesso si dice attrice di chi non è attrice, si riempiono cartelloni di nomi che sono passati mezza volta per un teatro, però sono sempre cose, insomma, che si riconoscono subito e crollano subito. Però il teatro diventa ancora quel luogo folle, perché io dico sempre che mi pare un luogo folle, perché delle volte vedo questo luogo che è, non so, 10 metri per 8, la media, no, di un palcoscenico, e tutto deve accadere in quel luogo. Mi sembriamo dei pazzi in teatro. Ci chiudiamo tutti in un posto abbastanza buio, poi lo illuminiamo meravigliosamente, però per far vedere ad altri dei sogni, dell'immaginazione, per far immaginare e sognare qualcuno, ma tutto costretto in un luogo ben preciso. Non è come il cinema, che tu vai in dei luoghi meravigliosi e metti la tua macchina lì perché vuoi che quella storia sia raccontata lì o lì. Però nell'epos, diciamo così, della storia teatrale si parla di opere che hanno infiammato gli animi, addirittura per l'Unità d'Italia, per i cambiamenti politici, per... Poi in realtà il miracolo continua forse, ma solo a livello personale, perché nella sua biografia leggo che a 15 anni lei optò. Sì. Quindi nel teatro c'è comunque una parola che coinvolge, che chiama, che evoca, però solo a livello individuale. Non è anche questo un segno, ahimè, dei tempi? Sì, non è più scandalo, non è più provocazione, non è più probabilmente quella cosa, ma oggi niente più è niente, nel senso che niente più cambiare, cioè nessun tipo di manifestazione né artistica né culturale purtroppo cambia o unisce violentemente verso un ideale o una cosa, un pensiero, una rivoluzione. Quindi c'è un appiattimento. Il teatro, sì, per alcuni è una piccola rivoluzione personale, sì, per me lo è stato, sempre un po' folgorata dalla parola, perché da ragazzina leggevo, perché la mia famiglia è una famiglia artistica, quindi in casa si avevano testi teatrali, quindi le prime cose che ho letto, non leggevo le cose dei ragazzi, ma leggevo Chekhov, Il giardino dei ciliegi, o Tennessee Williams, Il tram che si chiama, cioè, quindi mi sono avvicinata subito a questo mondo, che per me sembrava invece molto divertente, perché leggevo di queste storie, di questi personaggi, quindi mi sembrava molto fantasioso e stimolante per una ragazzina, ecco, non noioso. Bene, io, diciamo così, devo confessare, ce lo siamo detti prima, qual era la frase che avrebbe dovuto aprire questo segmento, però è talmente bella che io l'ho lasciata proprio così, a 2 minuti dalla fine della nostra prima parte. Ce la può dire? È sempre tratta da Rosa Tatuata. Sì, è una frase, devo dire, poetica e bella. E dunque dice così: siccome il marito è dentro, lei ha dentro l'urna le ceneri del marito, poi violentemente un giorno le butterà via, le spezzerà. Allora lei non vuole toccarle. Qualcuno dice: ma qui non ci sono ceneri? E lei dice: un uomo quando brucia lascia solo una manciata di ceneri, nessuna donna potrà tenerlo, bisogna che il vento lo spazzi via. Questo è molto... Sì, no, ma ne discutevamo anche prima. È una frase, Che mistero dell'uomo, sì, presuppone? Cioè, sembra più, diciamo, un invito a... cioè, una definizione ciclopica, forse della viridità più che dell'umanità. Sì. Ma non lo so, perché in questa commedia ha questo significato. Lei vuole avere queste ceneri dentro casa perché è come se volesse ancora tenere il suo marito con sé. E poi alla fine si accorge, dice, bisogna... insomma, quando uno è morto, quando uno bisogna lasciare che l'anima, insomma, qualcosa di sé ritorni da dove è venuto, quindi nessuno potrà tenere il ricordo di qualcuno che ormai non c'è più, bisogna lasciarlo andare via, il vento lo porti via. Quindi è bello, perché poi Williams è un poeta, quindi mette, e spesso viene anche un applauso perché il pubblico lo coglie proprio come il significato della commedia. Il cielo in una frase, di Filippo Di Giacomo. E di Mariangela D'Abraccio, la nostra guida questa settimana. La signora D'Abraccio è interprete di La Rosa Tatuata di Tennessee Williams e in scena al Teatro Quirino a Roma, Via delle Vergini, dal 19 al 31 maggio, quindi ancora per altre 2 settimane, 2 weekend, sì, insomma, sì, come sì, diceva il nostro buon Riccardo, che è molto americanizzato e inculturato. Stavamo parlando, signora, di qualcosa che avviene, diciamo così, dentro le potenzialità di un'arte umana, dentro, all'interno di una umanità, insomma, nel luogo oscuro chiamato teatro, magnificamente illuminato da luci e sì, da talenti. Però in realtà riflettevo che dentro proprio questa esperienza, in realtà l'attore è la persona chiamata per mestiere o chiamata per vocazione a esercitare uno strano esercizio di tipo psicologico, perché può succedere che un attore o un'attrice sul palcoscenico debba amplificare al massimo il proprio io, tanto da assumere una dimensione quasi sovrumana, epica, sì. Interpreta, che so, un personaggio granitico, sì. Intoccabile, al di sopra di ogni... Oppure deve restringere il proprio io fino a diventare... che so, l'abiezione stessa, la quintessenza del cinismo. E questo, diciamo, avviene regolarmente. Sì. E come ci si sente dopo, quando smessi, diciamo così, questo momento magico, si ridiventa, che so, un contribuente, un consumatore, un utente della quotidianità? E beh, questo è una fortuna poterlo provare, perché è una rigenerazione, ti rigeneri in quel momento, perché stacchi, non sei più nella tua vita, sei in un'altra dimensione. Non è una cosa poi da uso dimensione, non perché si va in una trance o cose così, ma sei in un'altra storia, sei in un'altra vita. E questo poi, quando esci, sei molto carica. Per esempio, accade moltissime volte che si inizia lo spettacolo e sei molto stanco, cioè non so come potrò fare questa cosa. E poi fai uno spettacolo estremamente faticoso, ancora di più, ne esci, sei più forte. Dici, ma come mai? Com'è possibile? Sei meno stanca di prima. Perché ti rigeneri, perché stacchi comunque con quello che ti stanca, cos'è la vita quotidiana, il consumatore appunto. Stacchi con quello, vai in qualcosa che magari è anche più stancante muscolarmente e anche dell'anima, però che è nuovo, che ogni sera è nuovo. E quindi è un allenamento che ti ridà. Poi non dimentichiamo il pubblico, quindi siamo dei vampiri, noi succhiamo dal pubblico, ci nutriamo, e la sera siamo più freschi, più giovani, più belli dopo aver fatto lo spettacolo, più energia. E infatti si fa tardi, no? Prima le famose cose degli attori, che prima di andare a ritornare nelle case andare a letto, perché si è veramente carichi. Sì, sì. Lo possiamo, così, vabbè, non inventiamo niente di nuovo, ma anche consigliamolo così ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, come metodo terapeutico per una giornata decisamente no, che a posto di essere vissuta, diciamo sì, venga concepita come bisognosa di una interpretazione. Vabbè, sì, la consiglierei. Infatti spesso le persone si avvicinano a qualcosa come fare delle tecniche, dicono di rilassamento, di... una specie di training, e trovano giovamento proprio perché entri in un'altra dimensione di te stesso, stacchi con il quotidiano. Quindi sarebbe un buon consiglio. Io sono convinto che noi, diciamo, ogni giorno recitiamo, solo che ci limitiamo spesso e volentieri a un genere di recitazione che fa molto ridere, è anche molto spendibile, ma non è molto nobile, che è l'imitazione. Certo. A volte caricaturando, sì. Certe... Poi capita chi, diciamo così, lavora nel mondo dell'audiovisivo, per esempio, di guardare la televisione nelle migliori condizioni, cioè senza audio. È vero, vedi, se lo faccio spesso. Sì, guardare la televisione, e per cui si comprende anche, come per esempio attraverso... questo quel giornalista, qual è l'archetipo del famoso che passa, insomma, e poi sì. Magari cambia la giacca o il gessato, allarga le righe, però poi, insomma, sostanzialmente sì. Persino il riporto diventa uguale in certe epoche, persino i nei, quindi diciamo così. Ora, supposto che, ahimè, questa vita cinica e bara ci obbliga a questo e questo ci permette, uno che volesse, diciamo, migliorare la qualità della propria interpretazione durante il giorno, uno che avesse voglia, desiderio di dire questa giornata la interpreterò al meglio, dove deve guardare? Dove guarda un'attrice? Io invito sempre alla leggerezza, però quello alla leggerezza interiore, cioè nel senso che l'ironia e la leggerezza ti fa vivere meglio una giornata pesante, noiosa, quotidiana nel senso più brutto, quindi sicuramente la leggerezza è una cosa che la leggerezza non vuol dire superficialità, assolutamente, anzi vedere forse più in profondità, e quindi alleggerirsi, perché poi vedi al di là di quello che è il quotidiano. Quindi la leggerezza e l'ironia aiuta moltissimo a superare anche le cose più brutte. Bisogna avere la battuta pronta. Io credo che ci sia un trucco, cioè la capacità così di chi è esperto di teatro di trasformare l'ultima cosa detta dal proprio interlocutore in qualcosa che può essere allo stesso tempo estremamente serio, estremamente comico. Beh, certo, sì, bisogna saper cogliere. Ma c'è un modo per interpretare la parola chiave che rilancia la battuta? No, un modo non lo so se c'è. Non tutti hanno questa capacità, eh? Cioè c'è proprio di cogliere qual è la parola che poi cambia il significato di tutti. Questa è una cosa, una caratteristica un po' particolare che non tutti hanno. Vabbè, segreto che la signora d'abbraccio non vuole rivelarci, allora cercheremo di almeno carpirle una definizione della sua arte che le è cara. Ma l'attore, in questo senso, cos'è? L'attore penso sempre che è un atleta dell'anima, proprio quello che si diceva forse prima, oltre a essere un vero atleta, quello di teatro, perché ha a che fare con la corporeità in modo quotidiano molto importante, ma è un atleta dell'anima, cioè lui deve assolutamente conoscere le proprie sensazioni interiore e avere a che fare, quindi atleta intendo dire quando uno ha il controllo di qualcosa, quindi pur lasciandola pura, nel senso pur non bleffando, quindi essendo vera. Quindi io penso che sia ha a che fare con tutto quello che è l'interiorità e quindi allena quello, allena soprattutto l'anima. Bene, e così Mariangela D'Abraccio, vi ricordiamo, è la protagonista di La Rosa Tatuata di Tennessee Williams in scena Teatro Quirino a Roma, Via delle Vergini, fino al 31 maggio. E noi così ci lasciamo con questo consiglio: se volete interpretare una giornata, ricordatevi che è un esercizio che sta dentro quella palestra, vostra palestra, che si chiama anima. Sì. Potete farlo e decisamente è qualcosa che fa bene a tutti. Grazie a Valerio Rocchetti, grazie a Riccardo Silvi e grazie a voi, a risentirci.